partirò lontano, una barca ed un timone ed io diverrò un lupo di mare che fugge dal mondo. Se partirò lontano, una barca ed un timone ed io. Raggiungerò nel mezzo dell'immensità, tu mi insegnerai la tua verità. Leggere tra le tue onde, tra righe di sale, un mondo corrotto che ci può far male. Da bugiardi, da gendarmi, dalle sante puttane, io ti cercherò ancora, tu mi troverai e l'ascolterò, sì, ascolterò. Vivere solo e nascosto, e non voglio soldato, pretendo di essere mio, che qualcuno ascolti il mio grido strozzato. Ancorata un anello sottile, vita vissuta mia, niente ancora da capire. Chi sei tu che può venirmi incontro come lama sfuggente? Chi sei tu che danzi intorno alla morte in modo irriverente? Ma hai visto cosa può darti il mare? Ma hai capito cosa può farti il mare? Può lasciarti qui da solo il mare. Ti avvolge, ti lascia l'odore, può potresti abbracciarlo per ore. Senti la forza nel cuore salirti da dentro, gridare più forte, scacciare il tormento. Questo è ciò che ti dà il mare, per lasciarti cambiare. Il mare ti ascolta, ti vuole capire, non vuole vederti soffrire. Il mare ti aiuta e niente ti chiede, in fondo sa cosa succede. E chiudere gli occhi nell'acqua, lasciarsi cullare, ma su quale isola andrò a naufragare? Non esiste nessuno che afferri una mano un istante, allora io ti ascolterò ancora, tu mi parlerai e io imparerò la tua immensità. Vivere solo e nascosto in un voglio sonnato e pretendo di essere mio, che qualcuno ascolti il mio grido strozzato a bottiglia di naufrago tra le